Non so se c'è Emanuele ancora, perché pochi minuti fa eravamo così a chiacchierare insieme. Ci sei ancora, Emanuele? Emanuele già lo sai che molla tutto e si vuole mangiare sempre. Natalino, ci sei? Ma non posso parlare, dai, che sennò disturbo, che fra un po' c'è la partita. Già rimango in ascolto, dai, sto mangiando pure. Posso farti la massa, Natali, veloce, 2 secondi? A me fammela. Ok, scusate, quelli che sono. Eia, Gianni, io e te, tu siamo adesso, no? Perché Calvino forse, non so se, non credo che abbia chiuso, magari si è spostato a fare qualcosa. Emanuele non c'è più. Capo, siamo rimasti io e te. vabbè, meglio pochi ma buoni. Infatti no, Natalino ha detto che sta mangiando e poi ha paura di disturbare troppo, perché adesso è ora che la gente guarda la TV e quindi ha paura che, insomma, il vicino non veda bene, magari sente la sua voce alla TV. Ma è strano, perché quell'antenna io l'ho avuta e a me non ho mai fatto TV, mai. Ma neanche io con questa, eppure già te l'ho spiegato quale altro disturbo causavo, ma sto usando pochi watt, in effetti prima magari mettevo più watt e non era neanche necessario, tanto per fare le 4 chiacchiere, capito? Già bastano 4 watt a Sassari, a Vuglia, arrivo anche ad Alghero, a Porto Torres con 4 watt senza problemi. E io lo stesso. Sto usando più di Cobra, sto usando sempre il Galaxy perché c'ero, diciamo, a metà. Sta andando sempre bene il Galaxy, Gianni? Sì, va bene. Se stai usando quello? Eia! Ho capito, vediamo se è entrato qualcuno, avanti. E a Mirko! Buonasera Mirko, da questa parte Carlo, Gianni, poi c'è Natalino che però mi sa che sta cenando e c'è Tonino, e non so se rientra anche Gavino. Comunque buonasera Mirko. Sì, va bene Mirko, già qua arrivi con Santiago 8 e diciamo la radio è buona e ti sentiamo tranquillamente, perlomeno io ti sento bene, ma anche Gianni, adesso ti dà conferma anche Gianni. Vai per Mirko, Gianni. Ciao Mirko, buonasera, dai. Sì, ti ascolto bene anch'io, dai. Non c'è nessun problema, Mirko. Già ti ascoltiamo, dai, fatto bene, sei entrato. Fai bene, così risparmi. Comunque la Game Master, confermo, l'ho avuta anche io, è molto silenziosa e ha anche poche stazionarie. Massimo mi dava 1 e 1, proprio andando male. Quello che c'ha la Game Master è che il materiale di quell'antenna non serve a niente, si vetrifica e si spacca. Ho capito, l'avrei fatta con la canna da pesca, così è. Mirami, questo è Mirko. KK. Va bene, avanti Torino. Ciao Mirko, ben sentito. Andava bene, sono entrato, avanti Carlo. Mi stavamo facendo 4 chiacchiere con Mirko che è entrato e già lo sentiamo bene qua a Sassari, arriva bene, a me mi arriva con un segnale di 8 pieno, la radio la sento bene, radio 5, capito? Un po' di rumorino di fondo mentre parla, però si capisce molto molto bene qua. A me si è messo con 7 e la radio 3-4, va bene, perfetto. Mirko, il minestrone l'hai mangiato l'altra sera? Ottimo, ottimo, quelli sono buoni, se è roba fresca, vedi un po' che spaghetti ti vengono fuori stasera. Bene, tutta roba buona, insomma, vedi. Tonino invece è andato sul sicuro, si è ordinato la fainè per stasera a cena. Da noi la fanno buona, vai Toni. Già fai, infatti, a me piace molto col pane, purtroppo col pane non la posso migliare, la pazienza. Ma mi accontenterò perché il pane non compro mai più, non lo sto comprando, fate biscottati integrali, quindi metterò 3-4 fette in 2 fette di fette biscottate. Gianni, ci sei? Sì, ci sono. Adesso mi devo inventare anch'io qualcosa. Qualcosa che si assomiglia alla fainé potrebbe essere una bella frittata con le cipolle. E ha il sapore quasi come la fainé. Buona quella, anche la frittata di cipolle, è un po' pesantina di notte, però già si può mangiare, io la mangio volentieri. Natalino forse è andato a cenare, mi sa, vero Tony? Sì, stava dietro da mangiare, quindi comunque sei in ascolto, non c'è problema. Sì, tutta con le cipolle, mamma mia, ma cipolle poi ci mettere senz'altro per sempre, aglio, formaggio grattugiato, così già. Sì, no, io per sempre l'aglio non ne metto, metto solo formaggio grattugiato, cipolle, olio, sale e vai che ce n'è. Aspetta, tu vuole roba pesante, hai capito capro? Sì, esatto, no, Mirko invece sono cosettine prelibate quelle che c'ha lui stasera. Buon per lui, dai, buon per lui, noi le immaginiamo solo. Io se no basta chiamare 140 grammi e ti fanno quello che vuoi, vino a pasta come la vuoi, allo scoglio, come vuoi. Alla puttanesca. Io la trovo che l'avevo presa, era un memore, arrivata calda, bella, buona, saporita. Ma c'è anche la puttanesca, se la vuoi. No, l'ho presa allo scoglio. E poi rimane scoglionata, da. Vedela, l'ha freschito. Non l'ho mai mangiata la puttanesca come dici tu. C'è quel ristorante La Parolaccia a Roma. Che lì te le dico in tutti i colori. Se vai con le ragazze è uguale, fanno la bestia. Sì, lo so, la conosco, me l'avevo detto, però non ce l'ho mai andata. Mi sembra che sia trattevole. Io l'ho visto su internet, che cosa fanno? Io ne ho sempre sentito parlare, ma a Roma ci sono andato tante volte, non ci sono mai andato. Ma la prossima volta che mi capita, se ho tempo di fermarmi qualche sera a cena o a pranzo, sono curioso e ci voglio andare a vedere come si mangia e più che altro anche sentire, a vedere cosa dicono. Ma non so dare cotta voce che le fanno a me fare le donne. A uno gli hanno detto, scusa, questa puttana dove l'hai presa? Ebbene, se il ristorante La Parolaccia è ovvio che le dica, no? Io ce la conosco, sono giugno a Roma, però non ci sono andato, perché c'è qualche militare, io la conosco, non tutto perché neanche Roma non conosce tutta Roma, però in parte la conosco. Carlo, se uno è permaloso, lui non ci deve andare, se no si azzuffa. No, ma io già non sono permaloso. A me ci ha detto va bene. Già, avete se lo riposo subito. Ah, ma devi stare al gioco, poi si mettono a cantare le canzoni con le parolacce, magari puntano qualcuno, non anche maschi, lo puntano. Chi è quel soggetto lì? Quel soggetto venga qua. Non c'ho internet, però per il cancello. Scusate che chiamo Vittorio, avrà la spina attaccata dall'internet. Perché ce l'ho internet a casa, però non riesco a aprire. Come? Non riesci a aprire il cancello? Allora io ho proprio l'applicazione che c'è sul telefonino. Però giustamente quello è collegato con l'internet di casa del suo Vittorio, con quella linea là, e c'ho la password e ce l'ho anche. Giustamente se io entro col mio non me lo fa aprire, se quello c'è lui ha la spina attaccata, il coso, la linea attaccata, capito? Molte volte si stacca, si spegne, niente, lui non se ne accorge. Allora ce lo chiamo perché mi dà tutto nero, non mi fa entrare, dice spento. Mi controlla, se no così magari suona. Va bene, adesso rilanciamo un attimo Mirko, così poi io inizio a salutarlo perché mi stanno chiamando, quindi immagino che mi devo spostare tra un po' e poi non so se si farà tardi, non so se rientrerò. Vai Mirko. Mirko, è sempre un piacere, dai, quando vuoi, se ci siamo non c'è problema. Benissimo Mirko, non ti preoccupare, quando ci senti bussa e sei sempre ben accetto, quando vuoi. Bene, ti saluto Mirko, non so se più tardi ci sentiremo perché mi guardo la partita, adesso mi chiamano in famiglia e forse devo dare una mano a mia moglie, è un problema con l'asse da stiro, dai, non lo so se rientro Gianni e Tonino, e non so se c'è ancora Davino, Emanuele, vi saluto, ascolto il vostro finale e poi mi devo spostare. Scusate che urgentemente devo uscire e chiamare Vittorio, dai, devo fare l'applicazione, facciamo un casino. Dai, ciao Carlo, a domani. Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Mirko. E ciao anche Gavino, c'è ancora l'ascolto. Ciao Manuele, il conventuale ascoltone. Ci sentiamo, ciao a tutti, con la parte mia. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, dai. chiudo anche io, dai, ci sentiamo ragazzi, statevi tutti bene, saluto tutti cordialmente, non voglio dimenticare nessuno, dai. Buona serata a tutti, buona continuazione. Ciao! Ciao, ciao Mirko! Buonanotte a todos. Ciao caro. Scusate, ero a fare quel lavoro nella macchina. Sono entrato adesso. Scusate ancora. Ciao Gianni, ciao Carlo, ciao Torino, ciao Natalino. Buonanotte a tutti. Fuori c'è un tempo assurdo. Ciao Gavi, adesso sarei cancarato tu. Ehi, sono qui, guarda, sono entrato tutto, di molto ho sentito che stavi salutando già, infatti ho detto sono entro perché è maleducazione, non, diciamo, non mi dispiace non salutare, però già fuori qua c'è freddo, freddo, freddo, freddo, ho coperto le batterie delle macchine perché dai, almeno qualche grado se lo risparmiano. Ciccia, però come va fatta? Ma io non lo sapevo questa storia delle batterie, lo sai che si copriva. Sì, sì, già, si coprono, quando ci sono questi sbatti qua. Vabbè, siamo andati da 15 gradi, da 15 gradi siamo andati a 4 gradi e si bruciano, si bruciano. Proprio partono, partono così, non che te ne accorgi. Vabbè, io già l'ho cambiata da poco, Vabbè dai, ciao Gabi, ci sentiamo, ciao di nuovo a tutti gli ascoltoni, tutti gli amici che ce l'hanno rotta, dai, ciao ciao. Ciao ciao, ciao Carlo, ciao Tonino, ciao Tonino, alla prossima. Ciao ciao Tonino. Carlo, sono Gabino. Ciao ciao ciao ciao Carlo. Scusami Gabi, ciao, ho sentito saluti da lontano, stavo rientrando e c'avevo ancora la radio accesa. Ciao Gabi, risolto con la macchina. Sì, sì, sì, sì, sì, no, ho toccato precauzione, niente, niente di che. Però sai, meglio prevenire e curare. Sì, hai ragione, col freddo si conservano meglio le batterie. Va benissimo. Ciao, buonanotte, ce la risentiamo alle prossime. Ciao Carlo, buona cena e buonanotte a te e alla tua famiglia. Ciao ciao. Buonanotte a tutti. Buonas noches a todos. Ciao Nicolì, buonanotte. Buonanotte a te e non mangiare tanto. Ho già finito di mangiare, ciao Gabi. Io devo ancora cenare. Devo ancora cenare. Va bene, ciao, buonanotte a tutti.